5H. Ascolta e trasforma. Quella volta lui credé fortemente in se stesso. Quella volta lui credette fortemente in se stesso. Quella volta lui temé di non riuscire. Quella volta lui temette di non riuscire. Quella volta lui ripeté l'esame. Quella volta lui ripetette l'esame. Quella volta lui ricevé molti ospiti. Quella volta lui ricevette molti ospiti. Quel giorno loro crederono in se stessi. Quel giorno loro credettero in se stessi. Quel giorno loro temerono di non riuscire. Quel giorno loro temettero di non riuscire. Quel giorno loro ripeterono l'esame. Quel giorno loro ripetettero l'esame. Quel giorno loro riceverono molti ospiti. Quel giorno loro ricevettero molti ospiti.